Italia in controluce. Bene, oggi è 15 di febbraio, Italia in controluce, in studio Daniele Biacchisi, termina questa settimana l'insegna delle inchieste e anche oggi abbiamo voluto dedicare alla nuova Tangentopoli 21 anni dopo il appuntamento di oggi. Ebbene, il 17 febbraio del 92 veniva arrestato Mario Chiesa e da quel giorno l'intera struttura dei partiti della Prima Repubblica crollò sotto i colpi delle inchieste della magistratura. 21 anni dopo ci risiamo, forse questa volta possiamo dire che ci risiamo davvero. Una nuova Tangentopoli, centinaia di indagini che mettono in discussione il connubio tra politica e affari, da Monte dei Paschi di Siena, Finmeccanica, l'ex giunte della Lombardia e Lazio. Faccio soltanto dei titoli, ma ce ne sono molti di più, tra crack e tangenti, l'intero sistema finanziario del paese è sotto accusa, mentre sono in corso le elezioni politiche più difficili della storia. È una crisi economica che non è ancora terminata. Che cosa non ha funzionato, secondo voi, in questi 21 anni? Perché non si è imparato dal passato? E soprattutto l'Italia, secondo voi, è un paese corrotto a livello sistemico, cioè il sistema Italia che è corrotto, e cosa si deve fare? Allora 349-238-6666 per ricostruire tutto con me in studio Anna Marino. Buongiorno Anna. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Da più parti risuona, rimbomba il parallelo tra la stagione di Mani Pulite e l'ondata di arresti di questi giorni. Dall'arresto di Mario Chiesa, allora i numeri fin da subito sono stati impressionanti, 2565 furono gli imputati, la radiografia di Tangentopoli. Ne arresteranno 1000, profetizzava poi nella primavera del 92 un uomo appena uscito da San Vittore, e quella sera quasi tutti la presero come una battuta di un manager IRI, era Alberto Zamorani. Poi è stato smentito, ma solo per difetto. Soltanto 8 anni dopo l'arresto di Mario Chiesa, la sua previsione è stata raddoppiata e persino triplicata dalla realtà. 21 anni dopo, come dicevi tu, oggi le indagini mettono sul banco degli imputati il legame tra politica e affari, tra Montepaschi di Siena, Finmeccanica, ex giunte della Lombardia e Lazio. Dalle banche al calcio, solo ieri un'ondata di arresti e 4 filoni di indagine. Accuse diverse: truffa per Gianluca Baldassari, l'ex capo della finanza che secondo l'accusa aveva smobilitato 20 milioni e pensava alla fuga all'estero; bancarotta per Angelo Rizzoli, l'imprenditore accusato per un crack da 30 milioni e di aver fatto fallire 4 società cinematografiche; aggiotaggio per Alessandro Proto, il broker avrebbe fornito false informazioni al mercato per alterare il valore di azioni; peculato per Massimo Cellino, presidente del Cagliari, coinvolto nell'inchiesta sull'uso di soldi pubblici per rifare lo stadio di Isarenas. Oggi 2 interrogatori importanti, quello dell'ex amministratore delegato di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, e quello dell'ex presidente di Monte dei Paschi, Giuseppe Musari, entrato a Palazzo di Giustizia a Siena, accolto da urla. E allora, quanto pesa da noi la corruzione? Ce la racconta Virginio Carnevali, vicepresidente di Transparency Italia, associazione contro la corruzione. Sentiamo. L'Italia è nella classifica della corruzione, della percezione della corruzione di Transparency del 2012, è al 72esimo posto con uno score di 42 su 100. È un dato inequivocabile, l'interpretazione invece è un po' più complessa. Prima di tutto ci sono state delle modifiche nel calcolo, per cui non è esattamente comparabile con quello dell'anno scorso. E poi il dato fondamentale, non bisogna mai dimenticare che questo è un indice di percezione della corruzione, quindi non è una misurazione effettiva, ma è la misurazione di quanto la corruzione sia percepita nei vari paesi. Questo può essere un pro e un contro, nel senso che può darsi che in un momento in cui c'è molta attenzione sulla corruzione, la corruzione sia molto percepita, quindi non è totalmente negativo il discorso che la corruzione sia percepita, perché può essere che ci sia molta più corruzione, ci sono dei paesi davanti a noi sicuramente più corrotti, ma dove la corruzione non è percepita. Diciamo che la percezione è il primo passo, conoscere un problema è forse il primo passo per cominciare a risolvere. Ecco, quindi i numeri sono alti, ma è anche vero che significa che siamo molto attenti a questo tema, poiché è un tema annoso. Diciamo che siamo corrotti e ce ne rendiamo conto. Dal punto di vista della campagna elettorale, voi avete dato anche lo scorso 11 febbraio un po' di indicazioni per, certo, diciamo, combattere questo male. Ci fa una sintesi? Quali sono? Non sono strettamente legate alla campagna elettorale, sono indicazioni generiche su come dovrebbe essere gestita la politica, cioè si parte per esempio dalla responsabilità giuridica dei partiti, al totale trasparenza dei finanziamenti privati e dei rimborsi pubblici, pubblicare possibilmente su internet tutti i dati, l'adozione di sistemi di controllo interni più efficaci e indipendenti, codici di condotta e sistemi sanzionatori interni, definizione del numero massimo di mandati, pubblicità dei redditi, degli arricchimenti e dei curriculum dei candidati, tutto possibilmente su internet, obbligo di gratuità per eventuali consulenze, inibizione dei parenti fino al quarto grado a trattare con la pubblica amministrazione e divieto di cumulo o quantomeno attenzione al cumulo degli incarichi. Ma mi pare un sogno quello descritto da Virginio Carnevali, diciamo di un paese normale. 349-238-6666, da Guido di Bergamo che ci dice che dopo 21 anni emerge il solito malcostume italiano, ma rispetto ad allora, cioè ai tempi di Tangentopoli, sembra che ci si indigni molto di meno. E io sono molto d'accordo con quello che dice il nostro ascoltatore Guido da Bergamo. Poi ce n'è un altro che ci tempesta ormai da anni con... diciamo dei papiri che diciamo sono assolutamente illeggibili e quindi io non li leggo. Una nuova Tangentopoli, ma che sorpresa, dice Giuseppe Caiolo, forse facciamo gli ingenui, ma dove eravamo quando qualcuno per esempio ha reso impunibile il falso in bilancio? E anche qui non si può dare tutti i torti a Giuseppe Caiola. Giuseppe da Udine dice che veramente è un problema non risolvibile in Italia e non è mai cessata neppure come Tangentopoli, anzi si è raffinata la tecnica e la modalità, dice Giuseppe da Udine. L'Italia come sistema si presta e vive di questo e mai cambierà se non cambiano le modalità di fare la politica. Michele da Firenze dice che ogni italiano... semplicemente perché ogni italiano cambierebbe tutto fuorché una virgola di se stesso, perché Mani Pulite, secondo Michele, divenne impopolare appena guardò gli illeciti a livelli un po' più bassi. La nostra classe politica è una vera associazione a delinquere, dice Barriella, priva di etica e di morale, ma purtroppo continua a rimanere dove sono e non cambia niente. Questi sono i vostri sms a 349-238-6666, quelli leggibili, cioè quelli, poi ci sono diciamo cose di vario tipo, ma questo del resto è normale, ma è come sempre democrazia. Dunque Anna Marino. Certo, al di là dei sogni, allora che cosa si deve fare una volta per tutte? Lo abbiamo chiesto a Walter Mapelli, sostituto procuratore di Monza, titolare delle indagini che delineano il cosiddetto sistema Sesto. La legge Chiaverino è un passo in avanti, però è un piccolo passo in avanti rispetto a quella che è l'emergenza corruzione in Italia. Il vero problema è che per 20 anni si è fatto finto che il problema della corruzione fosse stato risolto con le indagini di Mani Pulite, mentre invece oggi nel decreto e poi nella legge Chiaverino ci troviamo a constatare un grave peggioramento della situazione, tant'è vero che la stessa normativa prevede che la scuola di amministrazione e di alta amministrazione dello Stato faccia dei corsi di etica e legalità ai pubblici dipendenti. Si evidenzia in tutta la sua dimensione la gravità del fenomeno. Ecco, quindi il parallelo tra allora Tangentopoli e adesso l'ondata di arresti è un parallelo che ha quali caratteristiche, si può fare o no? Non è un parallelo che si può fare e direi che è la naturale evoluzione in peius di un problema che, ribadisco il concetto, è stato rimosso, è stato comunque delegato alla magistratura e poi si è pensato che da un certo momento in avanti non esistesse più. Secondo lei manca qualcosa, c'è ancora strada da fare per combattere meglio la corruzione? Mancano secondo me due cose, una è un'indicazione di una figura normativa, di una fattispecie unica, tipica della corruzione. E la seconda cosa che credo manchi è un segnale preciso che il delitto di corruzione è molto più negativo per la collettività rispetto ad altri tipi di reato, per esempio il furto, sia pure aggravato. Cioè... Questo Walter Mapelli, sostituto procuratore di Monza e titolare delle indagini sulle tangenti che coinvolgono Filippo Penati, il cosiddetto sistema Sesto. Moltissimi sono... gli sms, c'è chi naturalmente invoca la pulizia per quanto riguarda i politici, ma qui stiamo parlando anche di manager e quando, come Corrado da Como, dice finché la politica giustificherà le tangenti, e si riferisce, credo, a Berlusconi, il nostro paese non cambierà mai. Sempre la solita storia, il mondo dei furbi, tutti lo sanno, chi si fa beccare resta con il cerino in mano, dice Angelo da Bologna. La nostra classe politica deve essere riformata, dice un altro ascoltatore. Quando un vizio diventa attuale di moda viene considerato virtù. Ambitissime le virtù, molto, molto veloci, dice. Oppure perché l'italiano probabilmente è portato a rubare, quando è l'occasione poi non c'è la certezza della pena. Chi truffa non fa mai un giorno in carcere. Questi i vostri sms. Torniamo naturalmente lunedì alla stessa ora alle 13.30. Vi ricordo Facebook, pagina e gruppo, il nostro Twitter, poi la mail contoluce@radio24.it.